Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentornati su Mix 24. 60 anni dopo i trattati di Roma, i 27 capi di Stato si sono riuniti, lo sappiamo, e hanno, con la stessa penna di 60 anni fa, hanno rinnovato l'impegno dichiarando: ritroviamo il coraggio dei padri, questo almeno le intenzioni. Ecco, Romano Prodi, buongiorno professore, presidente, e benvenuto a Mix 24. Senta, prima di parlare con lei, questo ricordo di un passaggio importante dell'entrata dell'Italia nell'euro che l'ha visto come protagonista. Il primo ministro Aznar, con grandeur spagnola, rispose: no, la Spagna entrerà subito. E questa fu la sorpresa di Valencia. Conoscevo la debolezza della Spagna. È che Aznar si è un po' allargato, come si dice in termine popolare. Mi ricordo quando che nessuno ci guardava in faccia, no? Chirac improvvisamente disse: non c'è l'Europa senza l'Italia. Era un giornalista che gli chiedeva: ma l'Italia entrerà nell'euro o no? E lui rispose così. Mi ricordo subito la telefonata a Ciampi dicendo: guarda, è venuto il primo semaforo verde ad altissimo livello. Ecco, presidente Prodi, buongiorno. Buongiorno, ricorda, a lei, a ricorda l'emozione di quei momenti? Furono momenti da un lato drammatici e dall'altro fantastici, perché era in gioco il futuro del paese. E riuscimmo bene perché riuscimmo ad avere un rapporto a 990 lire per marco. E il nostro obiettivo, che era quello ovviamente di entrare svalutando il massimo possibile, l'obiettivo quasi incredibile era 1000, arrivammo a 990. Ricordo la mia ultima telefonata con Kohl, in cui i tedeschi e anche alcuni italiani che sabotavano la cosa chiedevano 930, 940. Io ho detto 1000, Ciampi insisteva 1000, alla fine mi ricordo questa telefonata che Kohl era al supermercato il giorno prima della decisione, che mi dice: senti, 1000 no, facciamo 9,90, perché io non posso andare in Parlamento con 1000. È stato un vero trionfo. Avete fatto un mercato, ecco, ma ecco, quell'emozione di allora, cosa resta adesso di quell'emozione? Con Ciampi avevate un po' forzato i conti per entrare nell'euro? No, avevo con lealtà, e mi hanno dato del matto. Ho detto: io metto la tassa per l'Europa perché voglio entrare con i conti pari, e la restituiremo quando le cose andranno meglio. Abbiamo messo la tassa e l'abbiamo restituita nella percentuale dei 2/3, come avevamo detto. Ecco, ma ripensandoci adesso, qual è il dolore più grande? Il dolore più grande è che l'Europa non è più quella. Non è mica l'euro il problema. Il problema è l'euro è la conseguenza di un'Europa in cui non c'è più solidarietà. Non c'è la politica. Non c'è la politica. Ma io ho fatto, quando abbiamo fatto l'euro, è perché Kohl dava ogni garanzia, e quando gli obiettavo: ma bisogna affiancare l'euro con delle decisioni finanziarie che lo proteggano, lui non mi ha detto no, come dice oggi Schäuble. Ha detto: lo faremo senz'altro, ricordati che Roma non è stata fatta in un giorno solo, e io ho dovuto combattere contro i miei compatrioti per avere l'euro, ma gli altri passi sono fatali. E questo è che è cambiato tutto dopo, quella è la verità. Senta, ci voleva la crisi per completare il quadro. Certo, senta, presidente Prodi, sabato nella Roma blindata dei leader non c'era quasi nessuno. A Milano 1 milione di persone dal Papa che parla dei problemi veri della gente. Ecco, quando è che l'Europa ha perso il filo del discorso con i suoi popoli? Mi ha fatto proprio toccato un tema che mi ha colpito moltissimo, vedere la TV delle diverse manifestazioni. L'unica consolazione è che erano pochi manifestanti per l'Europa, ma ancora meno i manifestanti contro l'Europa. Quindi il problema è il distacco dalla politica, Minoli. Dalla realtà, dei popoli. Ecco, ma non riusciamo più a far capire ai giovani che il futuro è lì. Senta, ma il Papa, da leader spirituale, sembra quasi si sia trasformato anche in un suggeritore per la politica, è così? Evidente, quando la politica manca di etica, arriva un uomo in cui l'etica è fatta persona e la gente lo segue, non nell'indicazione politica perché non ne no, dà. No, ma non ne dà. Ma lo segue nei grandi insegnamenti che fa, proprio primo perché sono straordinariamente efficaci, coerenti con la vita della persona. Perché certo, quella è la cosa più importante. Ma soprattutto perché c'è un vuoto assoluto e c'è un desiderio di etica. Una grande domanda. Ecco, adesso l'Europa non si allarga più, ma si restringe a due velocità. Ecco, ma come sarà? Cosa vuol dire esattamente l'Europa a due velocità? Due velocità vuol dire fare di necessità virtù. Cioè, non riusciamo a avere l'unanimità, soprattutto perché i paesi baltici e la Polonia e l'Ungheria sono impazziti. Certo. Ma dobbiamo fare qualcosa di grande, di nuovo, dobbiamo dare il segnale che il futuro lo sappiamo affrontare. E allora quelli che hanno questa convinzione lo faranno facciano. In più qualcosa assieme. Ecco. Io penso all'esercito, penso alla ricerca, penso all'energia, ecco, penso a questi capitoli. Certo, ma si dice che Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, ha già nel cassetto il progetto della Kern Europa, cioè il nocciolo duro intorno alla Germania, è così? Ma questo io non lo so, non lo sa nessuno, ma io penso proprio di sì. Intellettualmente Schäuble è fatto così, ma non è lui in questo momento che comanda la Germania. E credo che lo sarà meno anche dopo le elezioni. Ma Schäuble è bavarese, rappresenta l'ala tedesca, diciamo così, autonomista o tedesco-centrica, insomma. Senza, ma Schulz si è già sgonfiato? No, Schulz, intendiamoci, non è facile che Schulz vinca le elezioni. Però sarà più importante il nuovo governo, perché ha fatto sorpassare la crisi ai socialdemocratici. Certo. In qualche modo, mi prenda non alla lettera, ma Schulz sostituirà Schäuble nell'importanza del governo. Ecco, senta, Presidente Prodi, nessun titolo in prima pagina sul Wall Street Journal, nessuno sul New York Times, nessuno sul Financial Times. Cioè, il mondo anglosassone è lontanissimo dall'Europa oramai. Ma che mondo anglosassone? Tutti sono lontani dall'Europa. La vedo in ritirata. Ma scusi, io con i miei studenti, quando insegnavo in Cina, i miei studenti mi chiedevano altro che seminari sull'Europa nel primo anno. Nell'ultimo anno non mi hanno neanche nominato il nostro continente. Quindi proprio. Ma d'altra parte, se andiamo indietro invece di andare avanti. Ma professore, presidente. No, una cosa, ma guarda mi dica. Che hanno interesse a fare così. Io ripeto sempre, gli Stati Uniti sono stati negli ultimi 30 anni filo europei, hanno voluto che l'Europa nuotasse, ma che bevesse ogni 4-5 bracciate dell'acqua per non far concorrenza agli Stati Uniti. Quindi insomma l'Europa sì, ma insomma con prudenza. Quindi il neoprotezionismo americano in qualche modo può essere uno stimolo all'Europa per prendere coscienza che per nuotare bisognerebbe non bere? Lo è già. L'Europa a due velocità la Merkel non l'avrebbe mai proposto senza Trump. Sono gli schiaffi di Trump che l'hanno convinta, in qualche modo spinto a fare una curva. Cioè dobbiamo ringraziare Trump, insomma, se l'Europa rinasce forse. Beh, adesso ringraziare no, è troppo forte. Ma allora mettiamo evidentemente Trump sta facendo esplicitamente una politica antieuropea. E questo obbliga a reagire. Senta, le chiedo un'ultima cosa, Presidente Prodi, ma sull'Europa intanto si allunga sempre di più l'ombra di Putin? E negli ultimi tempi sì, Putin ha fatto un incredibile passo di ricevere la Le Pen, il ministro degli esteri Lavrov, un uomo molto intelligente, molto, non solo intelligente, ma con un aplomb totale, riceve Salvini, evidentemente questo significa... L'Europa la smonta degli Stati Uniti, diamo una mano anche noi a smontarla. Grazie professor Prodi, grazie. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms. Insomma, Mario, Putin è sempre più in qualche modo, non dico una stella polare, ma certamente un punto di riferimento. Non ci sono dubbi. L'ultima risposta del professor Prodi è, secondo me, il sunto perfetto. Cioè, se Washington smonta, il Cremlino aiuta. Certo, questo fatto che ogni tre bracciate ci fanno bene, dice basta. No, quindi... Che dice Pietrangelo? Io dico che la storia è sempre una struttura di simboli vivi, e la risposta a questa celebrazione piuttosto fuffesca l'abbiamo avuta confrontando due fotografie, o due fotogrammi che dir si voglia, cioè il vuoto e l'apnea totale di Roma nella celebrazione e la folla straripante e impressionante a Milano. Un capo spirituale ha un potere molto più forte di quanto possano avere questi, che sono costruiti su un artificio. L'Europa vera è quella che si riconosce nel sangue e nello spirito di un popolo, non certamente questo. Certamente. Che ci fai ascoltare oggi, Pietrangelo? Eccola! Faccio peggio sente sta canzone, la canto solo a te, coccio d'amore. Lo sangue mi fa volgere nelle vene. È lunedì oggi, Lo so. E come dice Salvo Ficarra, si avvicina il fine settimana. Valentino Picone compone le sue poesie e Lello Analfino, pronto a far serene tutte le serate, ha radunato oggi tutte le note nei vagoni della metropolitana. I corrimano sono diventati balconi, le sedie finestre, le ragazze si sono affacciate e sono stati baci. Tutti definitivi. Voglio stare sempre alla tua idea. Vetti nell'occhio tuo. Si avvicina il weekend, caro Mario, e tu cosa ci racconti? È il perfetto DJ. Evviva, si avvicina il weekend. Vabbè, che soddisfazione, dai. Oh mamma mia, speso una follia. Volevo un Mercedes bianco. Mercedes bianco. Minori, grande. Allora, Daniele, quanto ci manca. E Giovanni, in Europa ci sono 20 milioni di disoccupati sulla forza lavoro. La disoccupazione giovanile media in Europa è di circa il 20%, in Italia è al 40%, in Germania è al 7%. Sono numeretti che sono abbastanza importanti. E questi disoccupati abitano nel continente più vecchio del mondo. E l'Italia, in particolare, insieme al Giappone e alla Germania, è il paese più vecchio del mondo. È quel paese ha creato pochi posti di lavoro e in maggior parte sono andati agli over 50, guardare le statistiche, l'Istat se non mi credete. Allora, lo stesso paese di cui parliamo non ha i conti a posto, deve fare una manovra correttiva, ha fatto crescere il debito, regalato 80 euro a chi il lavoro già lo aveva tra l'altro, assunto insegnanti, ahimè, prima del voto, regalato una paghetta ai giovani, una tantum per carità, così è successo, ha ottenuto flessibilità dall'Unione Europea per 19 miliardi, ha un rapporto debito-PIL del 132%, non ve la faccio lunga, vi dico solo che ha preso impegni di spesa per 120 provvedimenti per un totale di oltre 44 miliardi di euro. E naturalmente adesso l'ex presidente del Consiglio, ex segretario, ma sicuramente futuro segretario, allora, con una certa probabilità, forse anche futuro premier di un governo di larghe intese, propone l'assegno europeo ai disoccupati. E con questo noi creeremo tutti i posti di lavoro che invece servirebbero al paese che ho appena descritto. Con un bel assegno di disoccupazione noi abbiamo risolto tutti i problemi. Vabbè, di chi c'è una fantasia lavoro. Senza limite. Sì, molto. Col portafoglio degli altri. Salamino! Contrordine sovranisti! Silvio Berlusconi, caro Giovanni, ha trovato il leader di domani. Viva! Luca Zaia non può, deve portare a termine l'autonomia per il Veneto. Stefano Parisi, sebbene in agitazione, è sempre costretto al carissimo amico di Marine Le Pen, versione spaghetti non se ne vedono, di Putin alle vongole neppure, non c'è Trump-Truppen, non c'è Trump-Truppen che possa chiedere banco, e il cavaliere, che una ne fa e cento ne pensa, allora la pensa in grande. Sfila il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda Matteo Renzi e lo lancia quale garante dell'operazione, tutto incluso, inclusi tutti, perfino Angelino Alfano. Non ci credo. Controordine sovranisti e controordine dunque per i populisti, gli indipendentisti, gli anti-euristi e gli uomini di fatica del centrodestra disintegrato. E svanita ancora prima di sorgere l'alba di ritorno a cosa? Ve la ricordate? Preparati i fazzoletti, commozione, prego! Erano tempi. Ci sarà comunque. Teniamola. Ci sarà comunque da vincere uniti alle comunali di Genova, alla campagna elettorale per la regione Lombardia alle porte, ma alle politiche, dove la battaglia sarà dura, durissima. Berlusconi si libera delle vecchie alleanze e punta barra dritta verso il mare grande moderato. Giovanni. Altro che meno tasse per tutti, il nuovo slogan verosimilmente sarà più Merkel per tutti. E Calenda, che non ha voluto saperne di entrare nel Partito Democratico, che ha bocciato gli 80 euro di Renzi, che ha stoppato il voto anticipato a giugno, che ha avuto recapitato pure un pizzino di diffida del proprio sottosegretario Teresa Bellanova, che rispetto ai tecnici ma i governi si reggono sui voti, piace anche a Renato Brunetta. Già rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, Calenda corrisponde a un profilo alto, altissimo, autorevole. Berlusconi, che una ne fa e cento ne pensa, come nota oggi Balzac, che si firma con lo pseudonimo di Carmelo Lo Papa su Repubblica, lavora al tutto incluso, inclusi tutti. Non solo Angelino Alfano, ma anche Pier Ferdinando Casini, che ricorderete è uno del celeberrimo duo Monnezza, così definito da Berlusconi stesso in assenza dell'altro, Gianfranco Fini, che se non fosse per quel forse sarebbe già della partita. Ma domanda che ci domandiamo, qual è il forse? Forse non ha il permesso del cognato Tulliani, ma questo è comunque... Questo non è un editoriale, è un saggio sull'Italia praticamente. Sì, praticamente. Praticamente. C'è una bolla, Mari, ancora? Sì. Per niente facili, uomini così poco allineati, li puoi chiamare i numeri di ieri, se nella notte... Allora, ma in realtà è una canzone sugli uomini fossati, ma parliamo di una donna, l'ha evocata prima... Pietrangelo, Angela Merkel, che ha vinto un turno di elezioni regionali in Germania, è abbastanza significativo perché era un turno che in cui tutti si aspettavano che nel Saarland appunto vincesse Schulz o comunque avesse un risultato molto forte, e così non è stato. Quindi, per legare le cose dette poco fa, Prodi, quando dice che Schulz non avrà vita facile, nel senso che una sua vittoria è un po' difficile, e forse la c'entra tutta, direi. I mercati, tra l'altro, stanno andando bene per quanto riguarda lo spread dei titoli tedeschi, segno che Angela Merkel è ancora il candidato favorito, caro Giovanni. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, sms, pubblicità, storia. Per i gialli della storia vi racconteremo dopo il giornale radio l'incredibile storia di Dusko Popov, la leggenda dello spionaggio nella Seconda Guerra Mondiale, una spia tedesca che inizia a un certo punto della sua carriera a collaborare con i servizi segreti britannici e a lui si è ispirato Fleming per il suo personaggio più famoso, James Bond. E per finire, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi vuole ricordare che gli uomini sono fragili, fatti di briciole e tenuti in piedi solamente dall'orgoglio. Mina, anche un uomo. Ragazza mia.